Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Il tempo vola, care mie eclettiche e cari miei eclettici. Pensate, sono passati 10 anni dall'uscita di OK Computer. Era il 16 giugno 1997 in Europa e il 1 luglio, sempre del 1997, negli Stati Uniti, la data di uscita del disco di Radiohead. E Giulio Capperdoni, con Eclettica, ha deciso di cominciare proprio con un disco che, brano dopo brano, rende tributo, 10 anni dopo, alla band di Thom Yorke. Giulio Capperdoni, in Eclettica, tutti i giorni della settimana, fra le 19 e le 20, e non è solo musica, ma sono anche letture e sono anche film. Weinstein era sdraiato sotto le coperte e guardava fisso il soffitto in un torpore depresso. Fuori, onde soffocanti di aria umida si sollevavano dal marciapiede. Il rumore del traffico era assordante, il letto infuocato. «Ma guardati», pensò. 50 anni, mezzo secolo. L'anno prossimo avrò 51 anni, poi 52. Con lo stesso metodo poteva calcolare la sua età per i prossimi 5 anni. Così poco tempo rimasto, pensò, e tante cose da fare. Per prima cosa voleva imparare a guidare. Adelman, l'amico con cui giocava a Liberi Tutti in Rush Street, aveva studiato guida alla Sorbona. Maneggiava la macchina splendidamente e in molte occasioni l'aveva guidata da solo. Weinstein aveva fatto qualche tentativo di sterzare con la Chevrolet di suo padre, ma finiva sempre sul marciapiede. Era stato un bambino precoce, un intellettuale. A 12 anni aveva tradotto le poesie di T.S. Eliot in inglese, dopo che dei vandali erano entrati nella biblioteca e le avevano tradotte in francese. Come se la sua intelligenza superiore non fosse bastata a isolarlo, sofferse indicibili ingiustizie e persecuzioni per la sua religione, soprattutto dai suoi genitori. È vero, erano entrambi membri della sinagoga, ma non riuscirono mai ad accettare il fatto che loro figlio fosse ebreo. «Com'è successo?» chiedeva suo padre, smarrito. «Ho la faccia da semita», pensava Weinstein ogni mattina mentre si radeva. Parecchie volte era stato scambiato per Robert Redford, ma sempre da dei ciechi. Poi c'era Feinglass, l'altro suo amico d'infanzia, tipico primo della classe. Un servo dei padroni che spiattellava tutto sul conto degli operai. Poi si era convertito al marxismo, un agitatore comunista. Tradito dal partito, andò ad Hollywood e doppiò un famoso topo di cartoni animati. Ironia della sorte. Questo era l'incipit del lamento di Weinstein, da citarsi addosso, di Woody Allen. Karma, bullies, I've given all I- it's not enough. I've given all I can, but we're still on the payroll. This is what you'll get. This is what you'll get. Deja vu. What did you just say? Nothing, just had a little deja vu. What did you see? What happened? A black cat went past us, and then another that looked just like it. How much like it? Was it the same cat? Might have been, I'm not sure. Switch, APOC. What is it? A deja vu is usually a glitch in the matrix. It happens when they change something. Ci proverò Vittorio Cane, assieme a Mao, un estratto dal suo nuovo album, che è il secondo della sua carriera, il brano che ci siamo appena ascoltati, dopo il tributo ai Radiohead da parte dell'artista di nome John Van der Slice, da una compilation in cui ogni brano di OK Computer è rivisitato da un artista diverso. Io ho scelto questa per oggi, ma penso che nelle settimane prossime in Eclettica andrò a sceglierne anche delle altre. Giulio Caperdoni in voce, raggiungibile in mail all'indirizzo giulio@radiorockfm.com nel caso abbiate da esprimere la vostra opinione, fare domande, fare richieste o iscrivervi alla lista nera di Eclettica, che poi si concretizza nel ricevere settimana per settimana automaticamente l'elenco di canzoni, film e letture che costituiscono la trasmissione, ovvero sia la playlist. Scrivete a giulio@radiorockfm.com e chiedete quindi di essere inseriti all'interno della lista nera. Ora vi lascio con uno dei gruppi più interessanti del momento in assoluto, poi il fatto che siano tutti attorno ai 17 anni li rende ancora più interessanti, direi, in prospettiva, anche se la storia ci ha insegnato di come tante band abbiano stupito con il primo brano, magari con il primo album, e poi puff, siano finite in nulla. Vedremo se i Cajun Dance Party invece ci racconteranno un'altra storia. I can't walk away. All I can do is say, Anche Weinstein aveva flirtato con i comunisti. Per fare bella figura con una ragazza all'università, si era spostato a Mosca e si era arruolato nell'esercito sovietico. Quando l'aveva telefonato per il secondo appuntamento, lei si era già fidanzata con qualcun altro. Senza parlare del suo grado di sergente nella fanteria russa, che l'avrebbe danneggiato più tardi quando avrebbe avuto bisogno di un visto della questura per ottenere il supplemento formaggio alla mensa aziendale. Inoltre a scuola aveva organizzato i topi di laboratorio e li aveva capeggiati in uno sciopero per il miglioramento delle condizioni di lavoro. In realtà non era tanto la politica, quanto la poesia del marxismo a far presa su di lui. Era sicurissimo che la collettivizzazione avrebbe potuto funzionare se tutti avessero imparato le parole di Butch Cassidy. Cosa, pensava, cosa si può imparare della vera essenza della rivoluzione sociale? Che non la si deve mai tentare dopo aver mangiato un calzone ripieno. La crisi del 1929 sconvolse lo zio Meyer, che teneva i suoi risparmi sotto il materasso. Quando precipitò la borsa, il governo richiamò tutti i materassi e Meyer cadde in miseria nel giro di 24 ore. Non gli rimaneva che saltare dalla finestra, ma gli mancava il coraggio e così rimase seduto sul davanzale del Flatiron Building dal 1930 al 1937. «Questi ragazzi, con la loro marijuana e il loro sesso!» zio Meyer amava dire. «Lo sanno cosa vuol dire star seduti su un davanzale per 7 anni? È lì che capisci la vita! Ah, nipote mio, dove finirà il mondo ora che esiste una bomba capace di uccidere più gente di uno sguardo della figlia di Max Rifkin?» Questo era ancora il lamento di Weinstein, da citarsi addosso, di Woody Allen. Thank you. Perdieron la tierra, veramente bello, questo dei Mus, duo spagnolo di cui ora dovrò andare a cercare tutti i dischi del passato, perché è da un bel po' di tempo che fanno musica. Io mi sono accorto di loro solo con quest'ultima prova e sono curioso di andare a vedere se è un guizzo così del momento oppure c'è tutta una carriera che ha portato passo dopo passo alla realizzazione di questa bella opera eclettica che sta per arrivare alla chiusura della prima parte di quest'oggi e che ci arriva a tutti gli effetti con un estratto dall'ultimo dei The Polyphonic Spree. You know, I wrote that program. Here it comes. So what did you think of her? Of who? The woman in the red dress. I designed her. She, well, she doesn't talk very much, but if you'd like to meet her, I can arrange a much more personalized meal. The digital pimp, hard at work.